Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Ex Ilva, il ministro Patuanelli incontra i sindacati, il piano ArcelorMittal con oltre 3.000 esuberi è inaccettabile. Sgravi per aziende che tornano in Italia, agevolazioni per i pagamenti digitali, ecco alcune delle proposte del piano Colao per Conte. Il governo è in salute, ribadisce Di Maio. Blitz anticamorra a Napoli, indagato il senatore di Forza Italia Cesaro, in manette oltre 50 persone. Stati Uniti, ucciso dopo un fermo di polizia un altro afroamericano nel New Jersey. Il fatto accaduto prima della morte di George Floyd, mostrato ora in un nuovo video. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Come avete sentito, le dichiarazioni del ministro degli esteri Di Maio da Atene rassicurano: il governo è in ottima salute nella settimana in cui si va verso gli stati generali, con le tensioni però all'interno della maggioranza su come investire le risorse che dovrebbero arrivare dall'Europa. E ieri proprio è stato presentato il piano Colao con una serie di 100 proposte per rilanciare l'economia, le infrastrutture e l'istruzione. Partiamo da qua. Giuseppe Conte lavora in vista degli stati generali dell'economia che probabilmente si terranno venerdì, primo passo di quell'iniziativa di condivisione con cui il Premier vuole accompagnare il piano di ripartenza del Paese e alla quale dovrebbero partecipare anche forze di opposizione, parti sociali, rappresentanti delle istituzioni europee come la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli. Restano sempre le tensioni nella maggioranza, anche se dal PD arriva una tenue apertura. Sì all'iniziativa, ma serve una svolta, un salto di qualità, un piano organico di riforme, dicono i Dem. Per ora, base di partenza, il piano elaborato dalla Task Force per la ricostruzione guidata dal manager Vittorio Colao. 6 capitoli, 102 proposte, tra cui rilancio delle imprese e del lavoro, dalla sanatoria sul lavoro nero all'emersione del contante non dichiarato, al rientro dei capitali dall'estero. C'è anche l'esclusione del contagio Covid dalle responsabilità penali del datore di lavoro, la regolamentazione dello smart working in tutti i settori produttivi, la detassazione del welfare aziendale e poi voucher per la banda larga per i meno abbienti, lo sviluppo della fibra ottica 5G, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, interventi sugli asili nido. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E adesso invece la vicenda ex Ilva. La proposta del piano industriale presentata da ArcelorMittal è inaccettabile. Così oggi il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, a quanto si apprende da fonti presenti all'incontro in videoconferenza con i sindacati, ha detto a Patuanelli: è stato un accordo inaccettabile perché mette in discussione i livelli occupazionali e il piano di investimenti, allungando a dismisura i tempi. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. E proprio oggi di ripartenza economica dopo la crisi Covid si parla di un'iniziativa dei giovani imprenditori di Confindustria, occasione anche per fare il punto sugli interventi a sostegno delle imprese contenuti nel decreto rilancio. Questo purtroppo è un paese che deve dare un colpo di reni e deve guardare al futuro con provvedimenti immediatamente esecutivi, non facendo più decreti che serve l'interprete per metterli in campo. Così il presidente dei giovani di Confindustria, Alessio Rossi, si scaglia contro la burocrazia italiana che rischia di strangolare le aziende e la stessa ripresa. Se non arrivano i prestiti, la colpa non è delle banche, ma delle normative scritte con i piedi, spiega Rossi, che cita poi il DL Rilancio e i suoi decreti attuativi, 7.500 gli emendamenti presentati, che verranno votati da lunedì, 274 giudicati inammissibili. Il leader dei giovani industriali definisce dichiarazioni che danneggiano il nostro paese le parole del presidente dell'INPS Pasquale Tridico sulle imprese che non ripartono perché c'è lo Stato a pagare la busta paga. Dal Ministero del Lavoro intanto arrivano i dati del primo trimestre: contratti attivati in calo di oltre il 10% a causa soprattutto del crollo di marzo, primo mese di lockdown. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo all'estero, intanto con l'andamento dell'epidemia di coronavirus nel mondo. Il Brasile continua a essere nell'occhio del ciclone, con nelle ultime 24 ore oltre 15.000 casi in più, sono stati superati i 700.000 casi, le vittime sono oltre 37.000. Intanto un nuovo studio sostiene che la diffusione del coronavirus in Cina risalirebbe a mesi prima. Il coronavirus potrebbe essersi diffuso a Wuhan mesi prima che le autorità cinesi riconoscessero la malattia, e quanto emerge da uno studio della Harvard Medical School, della Boston University of Public Health e del Boston Children's Hospital. Lo studio prende in esame le immagini satellitari dei parcheggi degli ospedali delle città che mostrano già tra settembre ed ottobre un'impennata nel numero dei veicoli presenti. Ci sono poi le ricerche sul web. 3 settimane prima del picco dei casi confermati mostrano approfondimenti sui sintomi tipici del coronavirus. L'OMS intanto avverte: se in Europa la situazione sta migliorando, si registra un peggioramento a livello globale. Particolarmente difficile è la situazione in America Latina. 1.367 i nuovi morti nelle ultime 24 ore, 33.087 i contagi. Resta in testa il Brasile, che supera i 700.000 casi dall'inizio della pandemia. Katia Caramelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Entro fine mese la Grecia toglierà qualunque blocco alla frontiera che riguardi gli italiani, lo ha detto proprio poco fa il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che si trova appunto ad Atene in una serie di viaggi che lo portano proprio a cercare di stabilire reciprocità con i paesi europei nella riapertura dei confini dopo l'emergenza Covid. Adesso invece con la cronaca veniamo in Italia. Maxi operazione a Napoli contro la Camorra e è indagato anche un senatore di Forza Italia. L'indagine della DDA di Napoli svela nuovi intrecci tra politici e Camorra. Risulta tra gli indagati il senatore di Forza Italia, Luigi Cesaro. Il blitz dei ROS è scattato stamattina nel napoletano. 59 arresti per vari reati: associazione mafiosa, corruzione elettorale, estorsione e turbata libertà degli incanti. Sono stati colpiti i clan Puca, Verde e Ranucci ed è stato scardinato un sistema di collusione che coinvolgeva anche imprenditori. La GIP di Napoli Maria Luisa Miranda si è riservata di prendere una decisione in relazione alla posizione del senatore all'esito, si legge nell'ordinanza, dell'eventuale autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni. Misure cautelari anche per 2 carabinieri della tenenza di Sant'Antimo. Dalle indagini è emerso che sono stati realizzati attentati per far dimettere consiglieri al fine di poter controllare il comune del napoletano. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E con la cronaca ci spostiamo a Roma, dove un 14enne è stato investito da un'auto il cui guidatore è poi risultato positivo ad alcol e droga. Travolto da un'auto in corsa davanti agli amici e ai compagni di classe con cui era uscito per festeggiare la fine della scuola. È morto così ieri sera Mattia Roberto, 14 anni, a 2 passi da casa nel quartiere dell'Infernetto, periferia romana a pochi chilometri dal mare. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane, fra la disperazione dei familiari accorsi subito sul posto. L'ho baciato, aveva ancora la bocca aperta, aveva una vita davanti e me lo hanno falciato così, e adesso io come faccio? Ha detto la mamma davanti al corpo del figlio ancora sull'asfalto. L'investitore, un 22enne che pochi metri dopo si è fermato sotto shock e ha provato a prestare soccorso, è risultato positivo ai test di alcol e droga. Subito arrestato, sarà processato già oggi per direttissima con l'accusa di omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe investito Mattia poco dopo le 22 mentre attraversava per primo sulle strisce pedonali, alle spalle gli amici che erano con lui e che potrebbero ora essere sentiti come testimoni. L'impatto sarebbe stato così violento da sbalzare il ragazzo per una 15 metri e le pattuglie della polizia municipale intervenute per i rilievi non avrebbero trovato segni di frenata sull'asfalto. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ieri ultimo giorno di scuola, adesso per quanto riguarda la scuola resta la questione degli esami per chi dovrà affrontarli, mentre per gli altri, soprattutto per i più piccoli, si apre la questione dei centri estivi e delle scuole materne attive nei calendari pre-Covid, almeno fino al 30 di luglio. I genitori stanno cercando di capire quali sono le possibilità offerte dai vari comuni. Dal 15 giugno riaprono i centri estivi nel rispetto delle norme anti-Covid, con la possibilità per le regioni di anticipare o posticipare le aperture. Dalle summer school alle colonie di prossimità, dalle fattorie didattiche agli oratori, le formule sono le più svariate, ma le regole ferree: piccoli gruppi stabili per fasce d'età, sanificazioni, mascherine dai 6 anni in su, giochi e attività sportive compatibili con il distanziamento. Apripista l'Emilia-Romagna, le cui linee guida sono state recepite nel documento di indirizzo nazionale. Elly Schlein, assessora al welfare dell'Emilia-Romagna. Si può essere creativi e responsabili insieme, questo abbiamo provato a suggerire al governo, c'è stata un'interlocuzione positiva, abbiamo anche chiesto l'integrazione della fascia di età 0-3 anni, perché non la si può lasciare senza risposta fino a settembre e non possiamo lasciare un carico maggiore sulle donne soprattutto. Qui c'è anche un tema, naturalmente, non si possono disperdere quel patrimonio umano di competenze preziose e degli educatori e delle educatrici professionali che, ricordiamolo, sono fermi per effetto della sospensione di nidi e materne, diciamo, dall'inizio dell'emergenza, ma adesso stanno anche finendo gli ammortizzatori sociali. Sono già partiti ieri con 25 bambini di 3-5 anni al centro estivo di Podenzano, in provincia di Piacenza. Silvia Quarati, presidente della cooperativa Eureka. Ci vuole una progettazione per i bambini in modo da non farli sentire in difficoltà, nel senso che ci vuole il distanziamento sociale, ma non si può imporre ai bambini di stare lontano uno dagli altri, per cui noi ci siamo inventati giochi, attività e una serie di cose che potessero far sì che i bambini si sentissero a loro agio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:11, facciamo una piccola pausa, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Ripartiremo dall'Ilva nella giornata dell'incontro tra il ministro Patuanelli e i sindacati per parlare del nuovo piano ArcelorMittal con i nuovi esuberi e le reali intenzioni della compagnia sullo stabilimento dell'Ilva. E poi il caso in Lombardia, bici vietate sui treni pendolari e naturalmente ciclisti ma anche associazioni del turismo che insorgono. Sembra che all'origine di tutto ci sia una questione coi riders che si sta cercando di risolvere. Poi ve lo anticipo, alle 13:30 parleremo della sentenza di ieri del TAR della Lombardia che ha bocciato l'accordo tra la Diasorin, azienda medicale italiana, e il Policlinico San Matteo di Pavia per la distribuzione dei kit dei test sierologici. Un bene pubblico, dicono i magistrati del TAR, non può essere ceduto senza gara ai privati. Un tema che riguarda tutta la ricerca italiana, il già precario mondo della ricerca in Italia. 349-238-6666, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Entro la fine del mese la Grecia toglierà qualsiasi blocco ai confini nei confronti dell'Italia, così il ministro degli esteri Luigi Di Maio da Atene. Ex Ilva, il ministro Patuanelli incontra i sindacati. Il piano ArcelorMittal con oltre 3.000 esuberi dice è inaccettabile. Blitz anticamorra a Napoli, indagato il senatore di Forza Italia Cesaro, in manette oltre 50 persone. Trenord, bici vietate sui treni pendolari della Lombardia. I ciclisti insorgono e ora si lavora un accordo coi riders. Ne parleremo tra poco. 13:15, eccoci qua cari ascoltatori, questi titoli principali di oggi. E allora, come avete sentito, parliamo, ci occupiamo della vicenda dell'ex Ilva in una giornata in cui il ministro Patuanelli incontra i sindacati per svelare i nuovi dettagli del piano industriale ArcelorMittal, di cui in realtà già alcune indiscrezioni si erano sapute nei giorni scorsi. Lo facciamo insieme al collega Domenico Palmiotti, corrispondente a Taranto per Il Sole 24 Ore. Ciao Domenico. Ciao Alessio. Ben ritrovato. Domenico Palmiotti, possiamo dirlo, vera e propria Bibbia dell'Ilva per quanto riguarda questa questione, che segui da tanto tempo, conosci tutti i risvolti, perché è una vicenda complessa. Partiamo dalla fine, il nuovo piano, i dettagli del nuovo piano che prevederebbe più esuberi di quanto detto in precedenza, cioè da 10.700 dipendenti in organico, se abbiamo letto bene, si scenderebbe a 7.500 dipendenti. Con appunto oltre 3.000 esuberi, meno di quanto previsto nel famoso piano del 4 marzo scorso che fece infuriare tutti, in cui si prevedevano 5.000 esuberi, ma comunque di più di quanto previsto dall'accordo originario che risale a 6 ottobre del 2018, in cui non c'erano sostanzialmente esuberi. Nel frattempo sono intercorse varie cose, la questione famosa dello scudo penale sui possibili reati ambientali in corso di bonifica, altre sentenze dei magistrati di Taranto che hanno bloccato parti l'uso di parti dello stabilimento di Taranto e poi la crisi Covid naturalmente. Arrivando di nuovo ad oggi, Domenico, cosa sta illustrando Patuanelli ai sindacati, i contenuti di questo piano, cosa prevede? Allora, la call conference è finita da pochi minuti, vedeva insieme a Patuanelli anche il ministro del lavoro Nunzia Catalfo e il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. C'erano i sindacati e Ilvin, amministrazione straordinaria, ArcelorMittal non era stata convocata. Il governo ha bocciato e ha respinto il piano di ArcelorMittal. Lo aveva fatto già il ministro Patuanelli sabato, oggi l'ha fatto Gualtieri e l'ha fatto anche la Catalfo. In sostanza il ragionamento che il governo fa attraverso i tre ministri è che questo piano è il contrario di quello che si era concordato a marzo scorso. Il governo dice sicuramente c'è stato il Covid, sicuramente il Covid ha avuto un impatto molto importante sulla tenuta dell'economia, sulla situazione dell'economia, però il piano che ha presentato ArcelorMittal è un piano che va oltre il Covid, esaspera, se così possiamo dire, tra virgolette, gli effetti del Covid. Il governo si è detto disponibile a valutare con ArcelorMittal, con cui avrà un incontro nelle prossime ore, quali strumenti, quali misure si possono mettere in campo per gestire l'aspetto congiunturale del Covid, ma i punti fondamentali di quel piano, ovvero produzione a 8 milioni di tonnellate, parliamo del piano di marzo, sì, 10.700 occupati, investimenti industriali e investimenti per il miglioramento della situazione ambientale devono rimanere, come dire, imprescindibili per il governo. Gualtieri ha detto perché questa è una nostra sfida di prospettiva anche nel New Green Deal europeo. Senti Domenico, i sindacati dicono più o meno apertamente, più o meno tutti, CGIL, CISL, UIL, FIM, FIOM, UILM, che le reali intenzioni di ArcelorMittal a questo punto sono altre, cioè entrare nel mercato italiano, di fatto con questo piano tentare di azzoppare l'ILVA e così diciamo chiudere sostanzialmente o quantomeno frenare più possibile la presenza come concorrente dell'ILVA in Italia. Quali elementi a sostegno ci sono di questa tesi e da quello che si capisce anche il governo comincia a credere in questa tesi? Il governo ancora non è per questa tesi perché mantiene ancora aperto un canale di trattativa, vuole andare a vedere quali sono le intenzioni dell'azienda. Gualtieri ha detto la nostra linea è questa, se ArcelorMittal ha maturato una diversa impostazione ne prenderemo atto. Però il governo adesso farà questo passaggio di chiarimento con ArcelorMittal e gli dirà ufficialmente che il piano non va bene. Gualtieri è stato molto esplicito su questo, dice bisogna fare dei passaggi chiari, bisogna farli bene. I sindacati fanno un discorso più generale, non solo dicono che ArcelorMittal è venuto in Italia per mandare allo sbaraglio ILVA e conquistare il mercato, ma dicono che ormai è un soggetto inaffidabile e inadempiente, soprattutto la UILM e poi anche gli altri, qualche altri sindacati, ci sono un po' delle posizioni diverse, comunque tutti convergono sulla netta critica di ArcelorMittal. Diciamo che gran parte del sindacato vorrebbe che con ArcelorMittal si chiudesse definitivamente ogni discorso, perché oggi per esempio la UILM diceva al tavolo della call conference che questa azienda da settembre 2018, quando è stato fatto l'accordo di subentro rispetto quello a ILVA, famoso, non, non ha più rispettato nessun impegno, e per la UILM ogni piano che presenta ArcelorMittal è peggiorativo rispetto al precedente. La FIM CISL, pur non condividendo e definendo molti interlocutori gli esiti dell'incontro di oggi, fa però risalire l'inizio di tutto, di questa nuova crisi, allo scudo penale, credo. Dello scudo penale, sì. Perché ha detto Bentivoglio oggi nella call, tutto è cominciato dopo le elezioni europee, e il leader della CISL ha detto non vedo perché per altri manager di altre aziende si introduca lo scudo penale, e quando si parla di acciaio ILVA diventa un tabù. Grazie per ora Domenico Palmiotti da Taranto, grazie per essere stato con noi e insomma vedremo naturalmente anche questa vicenda che avrà delle evoluzioni, quali saranno la vicenda dell'ex ILVA e l'incontro di oggi, avete sentito, tra i ministri e i sindacati, assente la proprietà. Adesso invece andiamo all'estero. Come hai sentito dai titoli di oggi, c'è un nuovo video che mostra nel New Jersey, negli Stati Uniti, un altro afroamericano fermato dalla polizia, disarmato e poi ucciso da un agente. Un fatto accaduto prima della morte di George Floyd. Il fatto che sta scuotendo l'America, la società e la politica americana, ma che è stato diffuso adesso con un nuovo video. Le manifestazioni nate contro ogni ipotesi di razzismo, insomma, per la morte di George Floyd, però negli ultimi giorni non si fermano più solamente agli Stati Uniti, stanno diventando un fatto globale e qualcuno parla di protesta antisovranista nel mondo. Daniele Biacchessi. Dagli Stati Uniti la protesta antisovranista e antirazzista si è estesa alle capitali europee e alle principali città del mondo. Ovunque migliaia di persone, soprattutto giovanissime, sono scese in piazza con cartelli, striscioni contro il presidente americano Donald Trump e contro la polizia. E lo slogan I can breathe, partito da Minneapolis, è diventato una sorta di mantra antisovranista internazionale. Da Roma, Milano, Firenze, Parigi, Londra, Madrid, Bruxelles, fino a Ottawa, Melbourne, Auckland. Proprio come quello americano non è un movimento organizzato, non emergono leader riconosciuti, non ci sono bandiere di partito o di schieramento in grado di egemonizzare le piazze. Piuttosto sembra un moto che si autoconvoca grazie ai social e al passaparola. Un enorme variegato flash mob di indignazione spontanea e popolare provocato dalle immagini dirette della morte dell'afroamericano George Floyd e dalla brutalità dei sistemi spesso fuori da ogni controllo della polizia. In ginocchio, spesso in silenzio, in mezzo ad una pandemia epocale, una moltitudine incalcolabile di uomini e donne hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia di George Floyd e hanno denunciato la discriminazione razziale e la xenofobia. Si tratta dunque di una coalizione internazionale di umanisti antirazzisti e antifascisti che include anche il presidente del Canada Justin Trudeau e gli ex presidenti come Barack Obama e il vecchio Jimmy Carter. Non sappiamo dove porterà e quando terminerà questo nuovo movimento. Sappiamo però che influirà certamente nella campagna elettorale americana e negli equilibri tra governo del paese e gestione degli apparati dello Stato. Eccoci qua, 13 e 23 minuti. Della serie cambieremo tutto, una delle cose che si dovevano cambiare quando eravamo ancora in fase 1 in attesa di rimetterci in movimento era la questione della mobilità. Vi ricordate quanti discorsi sulla mobilità che dovrà cambiare perché non si potrà tornare ad affollarsi sui mezzi pubblici, eccetera, più spazio per esempio alle biciclette. C'è una decisione del 3 giugno di Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, che ha fatto discutere, che ha vietato ai suoi passeggeri di trasportare le bici sui suoi treni, salvo i treni che hanno spazi appositi, salvo bici pieghevoli o monopattini, ma non più bici sui treni. Una decisione che va in controtendenza rispetto a quanto invece sta facendo Trenitalia a livello nazionale, che cerca proprio di favorire l'incontro tra il treno e la bici, dove basta pagare il supplemento e si può far salire la bici ovunque. Ciclisti, ma anche associazioni legate al turismo come Federalberghi di Brescia sono insorte contro questa decisione del Trenord. È con noi Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei, radioascoltatore. Grazie per aver accettato il nostro invito, Piuri. Allora, abbiamo poi scoperto, lo avete detto voi, che in realtà questa questione è nata per una questione relativa ai riders. Tanti riders che salgono sui treni con le loro bici per poi fare i servizi di trasporto e voi non siete in grado di garantire poi il distanziamento sociale, la sicurezza sui treni. E adesso, ultima ora, avete aperto un tavolo proprio con i riders per risolvere questa cosa. Ne parliamo tra un attimo. Prima voglio chiedere, la decisione di bloccare le bici è confermata dopo tutte queste critiche o la state rivedendo? No, la decisione è confermata nei termini in cui lei l'ha riassunta. E cioè, noi con questa decisione abbiamo voluto far emergere un problema, che è quello che ricordava lei. Noi, prima ancora di preoccuparci di poter portare le biciclette, abbiamo il dovere di preoccuparci della sicurezza del viaggio dei viaggiatori e di tutti i viaggiatori. La presenza massiccia di biciclette, come lei ricordava, crea un oggettivo problema di sicurezza. Guardi, abbiamo una serie di foto, di filmati, che fanno vedere biciclette ammucchiate nei vestibuli dei treni che bloccano le porte d'ingresso e uscita, che è una cosa che non possiamo evidentemente permettere. Così come filmati in stazioni in cui ci sono centinaia di rider che stanno salendo sullo stesso treno. Ora, noi siamo partiti da un tema di sicurezza per tutti, evidentemente, e abbiamo sollevato il problema con questo tipo di decisione. Avendolo sollevato, siamo molto contenti adesso ci siano dei tavoli con interlocutori sui quali, con i quali possiamo ragionare sulle soluzioni. È ecco, esattamente quello che volevamo. Quale tipo di soluzioni state pensando, in particolare credo per la, con le associazioni dei riders, cioè di, proprio di chi professionalmente e spesso e volentieri in bici fa questo servizio di trasporto, quindi magari viene da fuori, dalla provincia, viene a lavorare a Milano, si porta la bici, poi la sera torna a casa e però la bici è lì sul treno. A che tipo di soluzioni state pensando? Guarda, allora, noi stiamo discutendo con Asso Delivery, stiamo ragionando con l'Associazione Nazionale dei Riders, stiamo ragionando con la Federazione degli Amici della Bicicletta, quindi con diversi interlocutori. Allora, le soluzioni, come sempre, sono diverse. Allora, da una parte, evidentemente, permettere di portare treni anche in un certo numero, biciclette sui treni anche in un certo numero, quando però i treni siano sufficientemente attrezzati o dedicati. E qui stiamo ragionando in termini di flussi, di vedere quali sono i treni più frequentati da queste persone e cercare di organizzarci in questo modo e di permettere il carico ma in condizioni di sicurezza e non ripetendo quello che prima descrivevo. Dall'altra parte stiamo discutendo con loro per capire se non è possibile organizzare dei depositi di biciclette, per cui queste persone possono viaggiare senza la bicicletta sul treno e ritrovarsi poi con la bicicletta, evidentemente quando devono svolgere la loro attività di lavoro. Dei parcheggi sostanzialmente in prossimità delle stazioni. Esattamente, dove si possono depositare le biciclette. Attendere, il nostro ragionamento è quello che con la progressiva, diciamo, evoluzione della nostra flotta e con l'arrivo dei treni nuovi che saranno maggiormente attrezzati e, diciamo, e con soluzioni migliori di quelle attuali dei treni che abbiamo attualmente, attendere l'idea sarà quella di poter prenotare il posto con la bicicletta. E quindi addirittura un sistema di prenotazione che consenta alle persone di avere certezza di poter salire sui treni e a noi di avere contezza di quante persone hanno intenzione di utilizzare quel treno e se ci sono le condizioni per poterlo utilizzare. Quindi, guardi, nessuna scelta in controtendenza rispetto a Trenitalia. Noi vogliamo portare le biciclette, vogliamo portarle in sicurezza, è questo il tema che abbiamo sollevato e finalmente ne stiamo parlando in termini appropriati. No, in controtendenza lei sostiene di no, ma diciamo il punto forse sta nel diverso utilizzo, perché su Trenitalia non viaggeranno i riders che fanno magari viaggi frequenti tutti i giorni, tutti con la bici, quindi non c'è quel sovraccarico, però attualmente sui treni di Trenitalia è consentito, basta pagare un supplemento, portare la bici su qualunque treno senza limitazioni. Al momento sui vostri treni ciò non è più consentito, nemmeno al ciclista che vuol fare il viaggio della domenica e magari tornare la sera a casa in bici dopo aver fatto una pedalata, per esempio. No, ma lei ha perfettamente ragione che in questo momento la situazione è questa. Mm-hmm. Ovviamente noi siamo ben consapevoli che un tema sono i riders e il problema non sono le persone che fanno quell'attività, sono le biciclette evidentemente. Un tema sono i ciclomatori, cioè è evidente che sono diversi, come utilizzano il tempo libero e quant'altro. Ma appunto noi siamo partiti dal fatto che abbiamo rilevato in diversissime situazioni dei problemi di sicurezza che non potevamo permetterci accadessero in quel momento. Quindi al momento la situazione è questa, risolto il problema per quanto riguarda i riders, poi diciamo questo divieto cadrà sostanzialmente magari tramite l'app o qualcosa non del genere. Non solo cadrà, ha ragione, non solo cadrà, ma addirittura cercheremo di offrire delle migliori condizioni, più agevolate o più facili da utilizzare a tutti coloro che vorranno, diciamo, portare la bicicletta sui treni. Va bene. Questo è. Grazie all'amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Allora, chiarito anche questo, vedremo se i ciclisti saranno soddisfatti, ci sono già un sacco di messaggi, gente che non capisce per esempio com'è possibile che si blocchino le porte d'ingresso dei treni. Bisogna sapere che molti di questi treni di Trenord, appena si entra, poi hanno delle scale per salire, perché sono strutturati così, quindi la bici non può essere spostata in nessuna direzione, rimane lì nell'area d'ingresso e chiaramente se ci sono due biciclette già bloccano, tre addirittura, qualunque possibilità di ingresso sui treni. 13:30, ci fermiamo, 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste notizie di oggi: entro fine mese la Grecia toglierà qualsiasi blocco ai confini nei confronti dell'Italia, così il ministro degli esteri Luigi Di Maio da Atene. Ex Ilva Patuanelli ai sindacati, il piano ArcelorMittal con 3.000 esuberi è inaccettabile. Blitz anticamorra a Napoli, indagato il senatore di Forza Italia Cesaro, in manette oltre 50 persone. 13:36, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. I vostri messaggi al 349-238-6666. Ne leggo solo un paio velocemente, che sulla questione bici, il divieto di portare le bici a bordo dei treni pendolari in Lombardia, di cui abbiamo parlato poco fa. Due messaggi che testimoniano proprio il mancato amore tra gli italiani e la bici. Questo ascoltatore dice, nostalgico: ma una volta c'erano i depositi per bici nelle stazioni, ma poi chissà perché li hanno aboliti. È vero, lo ricordo anch'io, parcheggi, depositi, adesso non ci sono più, chissà perché. Tanto che invece se ne parla di nuovo perché sarebbero necessari. Il punto è, scrive quest'altro ascoltatore, dice, ma un vagone per le bici come in Alto Adige non sarebbe possibile? Se lo fanno loro, perché noi no? Il punto è che l'Italia non è ancora pronta. Eccolo qua. Ed effettivamente questo è il, come dire, il difficile luna di miele tra gli italiani, tutti, compresi quelli che amano la bici ma che poi non riescono a utilizzarla, e appunto le due ruote. È il punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. C'è un numero che ha indicato ieri l'Istat, ma è passato quasi sotto silenzio perché è oscurato da quello sul calo del PIL. Quest'anno le unità di lavoro si ridurranno del 9,3%. È una definizione tecnica che corrisponde all'equivalente di un lavoratore a tempo pieno, ma poiché è calcolato sulla base delle ore lavorate effettivamente, può anche essere la somma di più spezzoni di lavori precari. Ciò che conta è che quel meno 9,3% significa l'equivalente di oltre 2 milioni di lavoratori a tempo pieno, ma nella realtà del lavoro precarizzato dunque saranno molti di più. Non è un caso che il Covid abbia già colpito i contratti a termine, i primi essere stati bloccati, e nel solo mese di aprile non ne sono stati rinnovati 735.000. Ha fatto bene Vittorio Colao a inserire tra le priorità del suo piano la proroga dei contratti a termine, abbandonando i vincoli normativi inseriti dagli ultimi due governi. Ma soprattutto ha fatto bene a indicare nel lavoro e nell'impresa il motore della ripartenza, che significa investimenti pubblici e privati. Solo così si ricrea il lavoro distrutto, solo così si riducono quelle diseguaglianze che stanno creando un pericoloso clima di tensione sociale. Prima si capisce, meglio è. E va bene, e va bene. Adesso, come anticipato già nel sommario, approfondiamo una notizia di ieri. La notizia è questa: il TAR della Lombardia ha bocciato l'accordo del 23 marzo tra la Diasorin, che è un'azienda italiana del medicale, e il Policlinico San Matteo di Pavia per la produzione e commercializzazione dei famosi test sierologici. L'accordo prevedeva che in cambio delle royalties dell'1% alla Fondazione del Policlinico San Matteo, che ha inventato questo test, la Diasorin potesse avere l'uso esclusivo per la commercializzazione, che poi avrebbe dovuto essere utilizzata dalla Regione Lombardia in 500.000 dosi. Io, quando ho annunciato il tema, già sono arrivati alcuni messaggi di ascoltatori che dicono ma è la solita storia del TAR che boccia tutto. Allora, non ci limitiamo a questo giudizio, i giudici che bocciano qualunque iniziativa, perché qua c'è qualche cosa di più questa volta in questa questione. Il bene che i giudici vogliono tutelare è il bene pubblico della ricerca, perché loro dicono la ricerca non può essere ceduta a privati senza un bando di gara, perché dietro la ricerca c'è un investimento che pagano i contribuenti italiani. Allora, può il San Matteo cedere tutto questo lavoro che ha fatto per creare questo test sierologico a un'azienda privata senza fare un bando, con anche l'ipotesi di un danno erariale, perché poi la Diasorin l'ha venduta a un prezzo che sembrerebbe essere maggiore rispetto al prezzo di mercato? Cioè, la ricerca pubblica fa il lavoro sporco, poi arriva la Diasorin e ci fa i suoi guadagni. Questo non può essere, secondo i giudici amministrativi. Noi ne parliamo con Renato Balduzzi, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ex ministro della salute del governo Monti, ma soprattutto esperto di diritto amministrativo, docente della Cattolica di Milano. Balduzzi, un commento intanto di questa sentenza, poi entriamo anche nel merito. È difficile commentare una decisione avendo solo visto, come ho potuto fare io, i lanci di agenzia, quindi qualche riga che dava, diciamo, il senso del dispositivo e forse anche un pezzetto della motivazione, quindi è difficile commentarla. Così pure, per poterla capire bene, bisognerebbe avere naturalmente i dati esatti i caratteri esatti del contratto, però da quello che possiamo aver capito è il punto nodale è proprio quello che accennava lei, cioè nella scelta del partner, no? San Matteo, come si fa normalmente in questi casi, sceglie un individuo, un partner per poter sviluppare determinati prodotti, determinati, certo, no, il frutto di un lavoro interno all'ente di ricerca, che ha bisogno naturalmente di partnership. La domanda è: deve assoggettarsi nella ricerca del partner a delle regole procedurali oppure non deve? Non è così facile dare una risposta tranchant, perché dipende dall'esistenza o meno di una collaborazione pregressa. Voglio dire, se io sto, certo, lavorando da X mesi, anni con un certo partner, e a questo test, sì, certo, sviluppo, ci arriviamo insieme, certo, una cosa, è evidente che quello è la continuazione di un'attività che già si svolge, e lì sarebbe più difficile immaginare un obbligo di avviso, no? di un gara, obbligo procedurale. Gara, certo. Se invece è una cosa completamente nuova, probabilmente un avviso per la ricerca del partner ci poteva stare, ecco, nel senso che normalmente ormai in passato erano procedure più, forse più opache, ecco, però normalmente io so che nel mondo della ricerca e sì, del partenariato pubblico-privato questo si fa abbastanza, cioè anche perché non richiede una gara, no? Cioè, un conto è la gara per, no, questo la ricerca di un partner di una collaborazione, è sufficiente un avviso pubblico che metta in condizione chi voglia fare proposte e diciamo mettersi avanti di poterlo fare, di mettersi, ecco, credo che sia quello il punto che il TAR abbia messo sotto osservazione. Senta Balduzzi, un pochino più in generale, no? Per quanto riguarda proprio il rapporto tra la ricerca pubblica e poi il mondo del privato, dell'industria, che ha, come dire, il compito fondamentale di commercializzare, industrializzare, rendere queste scoperte diciamo delle tecnologie operative vere e proprie. E in tema di royalties, l'1% di royalties riconosciute in questo caso al San Matteo bastano a compensare i costi pagati dal contribuente, che saremmo noi che finanziamo la ricerca pubblica, a cedere poi questo bene che diventa di concessione, tramite concessione, un bene privato? È sufficiente l'1% di royalties o andrebbe, come dire, rivisto, aumentato, corretto, come dire, in modo per rimborsare, che è una brutta parola, ma insomma, per premiare lo sforzo fatto dalla ricerca pubblica? Dunque, per quello che so io, in questo settore, questo tipo di sperimentazioni, le royalties oscillano dall'1 al 5%. Questo è il range, no? Quindi di per sé l'1 è il minimo, ma quello da cui siamo partiti è il minimo, ma c'è dentro il minimo. Certo, questo dipende evidentemente poi, no, dalla concretezza della sperimentazione, dalle sue caratteristiche. Più in generale, io credo che sia importante riuscire, ecco, a mettere su un piano di trasparenza massima, no? Io non sono, anzi, non credo che nessuno sia contrario a priori a forme di partenariato pubblico-privato. Per la ricerca sono indispensabili. Beh, no, anzi, bisogna, certo, sono indispensabili. Indispensabili. Il punto è stabilire le regole, trovare le modalità giuste. Stabilire le regole e mettere su un piano adesso andiamo oltre il caso di specie, ecco, ovviamente, metterlo su un piano di trasparenza. Per esempio, è molto importante, questo all'interno naturalmente dell'ente pubblico, seguire poi le procedure dei protocolli di ricerca, cioè cosa si fa? Si individua un partner, poi attraverso anche una procedura veloce, ma si individua un partner, si fa un protocollo di ricerca, lo si porta in comitato etico, certo, con le caratteristiche, no? E questo tra l'altro è un modo per dare anche una trasparenza e una pubblicità. Immagino che San Matteo l'abbia fatto, nel caso di specie non ho informazioni. Sì, adesso stiamo ragionando stiamo andando anche un po' oltre il caso di specie, perché poi questo è un tema che riguarda, anzi la ringrazio professor Balduzzi per essere stato con noi, la ringrazio, è un tema che riguarda la ricerca in generale, come premiare la ricerca pubblica, come coinvolgere gli operatori privati. Ci sono naturalmente delle regole, qui c'è una eccezione sollevata dal TAR, e se ci sono degli illeciti come per esempio un possibile danno erariale che deriverebbe dal fatto che poi Diasorin ha messo in vendita a Regione Lombardia a 4 euro questo test, che poi in una gara successiva andava a 3 euro e ancora un concorrente svizzero vendeva a 1,03 euro, quindi diciamo anche un guadagno eccessivo per Diasorin e un danno erariale per gli enti pubblici. Ci fermiamo, torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.